Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Vietato dimenticarle, ma prenderle tutte insieme non è sempre una buona idea. Parliamo di pillole, pastiglie, compresse. A volte è necessario assumerne più di una, ma, come la cronofarmacologia insegna, ognuna ha il suo tempo. Come a dire, ogni farmaco ha la sua ora. A Obiettivo Salute il professor Roberto Manfredini, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche all'Università di Ferrara. L'enzima che produce il colesterolo lavora di sera e di notte, quindi se lo vogliamo inibire, il farmaco per bloccare la produzione del colesterolo è meglio prenderlo la sera. Ci sono i farmaci per la pressione, noi abbiamo vari picchi della giornata, abbiamo un picco al mattino, abbiamo un secondo picco pomeridiano serale e in alcune persone durante la notte la pressione è bassa, in altre la pressione invece è alta perché vengono catalogati come ipertesi non dipper, cioè non hanno il calo notturno della pressione. In queste tipologie di pazienti alcune ha senso che alcuni farmaci vengano presi la mattina, in chi ha la pressione alta di notte almeno uno dei farmaci andrebbe portato alla sera prima di dormire e dobbiamo calcolare che i farmaci che usiamo durino abbastanza, presi alla mattina, per essere completamente efficaci la mattina successiva, quando è ora di prendere l'altra pastiglia, perché quello è il momento, per esempio, del rischio cardiaco. Poi abbiamo, per esempio, farmaci per l'ulcera. Alcuni di questi farmaci devono essere assunti per definizione al mattino a digiuno, altri hanno la possibilità di essere assunti alla sera quando c'è bisogno di inibire l'acidità gastrica notturna. Poi abbiamo per esempio gli ormoni della tiroide, i farmaci degli ormoni della tiroide conviene, anzi vanno assunti alla mattina, ma vanno assunti alla mattina a digiuno. Come si vede, per ogni farmaco esiste un momento buono e uno meno buono per la propria somministrazione. Per saperne di più potete ascoltare l'approfondimento sulle pagine del nostro programma. E come ogni mercoledì torna l'appuntamento con la salute via mangiando, indicazioni, trucchi e consigli per coniugare gusto e salute a tavola. Oggi sulle pagine del nostro programma la colazione che sveglia il metabolismo. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto in diretta video per parlare di pelle al freddo. Mi raccomando, non mancate insieme a me la dottoressa Adele Sparavigna. Noi ci sentiamo domani, sempre a mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.